sonnaggia verso te, fammi dormir una notte abbracciata con te. Oi Maria, Maria, quando sonnaggia verso te, fammi dormir, oi stella, Maria Cammanella, nu segnam me fa. Sona chitarra mia, Maria se scedava, la cicca serenata. Ci me la sentì. Oi Maria, quando sonnaggia verso te, fammi dormì una notte abbracciata.